Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi mi azzardo a proporvi una lettura da 2096 pagine, ma forse chissà, il periodo estivo induce alla lettura di opere non tanto più impegnative quanto che hanno bisogno di più tempo e che del resto, come nel caso di questo libro, può essere anche letto abbastanza a spizzichi. Questo è un libro molto importante, per non dire appunto imponente, ma insomma è un grande classico che prima o poi va affrontato ed è Port Royal di Charles-Augustin Sainte-Beuve, un'opera pubblicata tra il 1840 e il 1859 e adesso riproposta da Einaudi in un'edizione molto bella che costa però 150 euro. Il numero delle pagine totale, ve l'ho detto, 2096 pagine, vi risparmio il peso. Questa edizione è curata da Mario Richter, che ha coordinato la traduzione di Fabio Labaldo, Marina Bernardi, Elettra Bordino, Maria Dario e Alessandra Flores d'Arcais. Certamente ci vuole coraggio a presentare un'opera così impegnativa, ma anche a pubblicarla, e dunque onora l'editore e qualche parola sul perché riaccostarsi a Port Royal. Che cos'è innanzitutto questo luogo? È un celeberrimo convento femminile che è sito nell'Île-de-France, a pochi chilometri da Parigi, fondato nel 1204 e divenuto famoso nell'epoca sotto Luigi XIV per essere diventato un centro di spiritualità e di riforma del cattolicesimo tra i più importanti del secolo, tanto da richiamare l'attenzione di molti intellettuali come Pascal, di cui proprio troviamo qui, fra l'altro, un magnifico ritratto. Questo convento fu un centro così vivace di cultura da entrare in rotta di collisione con i gesuiti, con la Santa Sede e col Re Sole, che vi vedeva una minaccia in quanto espressione di un pensiero dissidente o semplicemente critico verso l'ortodossia cattolica. E proprio questa caratteristica affascinò Sainte-Beuve, un poeta, romanziere e saggista francese vissuto tra il 1804 e il 1869, che con quest'opera guadagnò fama universale. Perché? Perché vi troviamo la descrizione impareggiabile di un clima, di un'epoca e l'espressione anche di una sensibilità particolare, quella dell'autore, che comincia quest'autore molto sensibile verso la Chiesa e la religione, e nello scrivere l'opera cambia atteggiamento, diventando da spiritualista invece un ferreo positivista. Ma sentiamo qualche consiglio per accostarci alla lettura di quest'opera dal curatore, il professor Mario Richter, che è un noto francesista. Buongiorno a Mario Richter. Buongiorno. Professor Richter, lei ricorda nella sua introduzione a questo volume il giudizio di Contini, il grande studioso italiano, secondo il quale questo sarebbe il più gran libro che sia mai stato scritto. Ecco, come fare avvicinare i lettori a un'opera così monumentale per gustare appunto di questo grande capolavoro? Sì, guardi, il giudizio di Contini ha una particolare importanza, anche perché è stato uno dei critici più autorevoli e più rispettati dalla mia generazione. Devo dire che Contini, nell'intervista che gli fece Ludovica Ripa di Meana nel 1988, cercò anche di motivare la sua valutazione così straordinariamente positiva. Contini precisò che Port Royal è la più grande opera che sia stata scritta, parole sue, per il fatto che in essa, disse, è possibile passeggiare, e anche per il carattere squisito del suo stile, della sua lingua. Beh, passeggiare senz'altro è una motivazione estremamente sintetica, insomma. Cosa intendeva dire Contini? Suppongo che intendesse dire questo, che in Port Royal non si è costretti, come spesso capita nelle opere saggistiche o storiche, no? A seguire un itinerario preciso, un itinerario da percorrere in una precisa direzione, quasi a marce forzate. In Port Royal invece è possibile appunto passeggiare, cioè muoversi così per divertimento, per distrazione, senza una meta precisa. E forse Contini voleva con ciò anche sottolineare l'aspetto più moderno di Sainte-Beuve, aspetto al quale deve non poco lo sviluppo in Francia della letteratura successiva, da Baudelaire a Verlaine e oltre, forse fino a certi aspetti del cubismo. Penso in particolare alla necessità di raccontare un'esperienza integrale, di rifiutare ogni limitazione convenzionale, queste sono parole di Sainte-Beuve. E in lui ci sono, in nuce direi, anche i flâneurs del XX secolo, tipo Apollinaire. Personalmente credo che l'affermazione di Contini, anche se magari un tantino eccessiva, un tantino esagerata, vero? Si pensa a opere come la Divina Commedia o come Guerra e Pace, vero? Credo che sia un'affermazione nella sostanza da condividere. Sono poche infatti le letture avvincenti come Port Royal. Per quale ragione? perché la complessa verità storica che si erge, che si edifica in ogni direzione, a partire da un umile monastero femminile del Seicento, è raccontata, oltre che con grande rigore, con estrema sensibilità, ma anche con levità, fino a regalarci le emozioni che solo può dare la poesia. Ricordo tra l'altro che Sainte-Beuve è stato anche un poeta conosciuto, vero? E anche un romanziere con Volupté, poeta e romanziere di tutto rispetto, apprezzato molto da Baudelaire e da vari altri. Lei nella sua introduzione si sofferma anche sull'evoluzione nei confronti della religione che ci fu nel corso della scrittura di quest'opera. Sì, effettivamente sì, però ecco, io non credo che sia possibile ingabbiare Sainte-Beuve, il Sainte-Beuve di Port-Royal, in una definizione univoca. Pensi che l'opera è rimasta in cantiere per un tempo lunghissimo, per 30 anni, dal 1837 al 1867, e durante questo periodo così lungo, una vita insomma, l'autore è passato da un iniziale fervore religioso, che si vede nei primi due o tre libri dell'opera, che ne comprende in tutto sei, a una forma di agnosticismo sempre più deciso, a un positivismo sempre più convinto, fino al rifiuto di avere un funerale religioso. La verità cristiana era diventata per lui una malattia, un artificio. Si potrà allora concludere che Sainte-Beuve era un uomo poco coerente, poco fermo nelle sue convinzioni? Ebbene, se così si pensasse, credo che non ci sia risposta migliore di quella che in proposito ci dà lo stesso Sainte-Beuve quando, nel sesto libro, disapprova l'ostinazione del vecchio Arnaud, grande sostenitore del monastero, nel mantenersi fedele alle sue idee. Sainte-Beuve è un uomo in continuo mutamento, si adegua a meraviglia agli argomenti che tratta, ecco questo. Lei mi ha anche chiesto che cosa dell'esperienza di Port-Royal affascinava Sainte-Beuve, certamente più di tutto l'affascinava la vita umile, la vita nascosta di tante anime grandi, di tante monache, spesso donne di intelligenza davvero superiore, come le due madri Agelle, la prima e la seconda madre Angelica. Era attratto da tante meraviglie nascoste, ignote, e ciò l'avvicinava alla sensibilità di Baudelaire, che come lui amava ascoltare il profumo dolce come un segreto delle solitudini profonde, mentre lo allontanava dai mostri sacri del suo tempo, lo allontanava dall'esuberante e focoso Balzac, lo allontanava da Victor Hugo, uno scrittore solare che difficilmente poteva capire un mondo, quello di Port-Royal, che invece amava soltanto l'ombra. Poi lui incappò nella condanna di Marcel Proust. Ah, ecco, a proposito di questo, esistono dei principi giusti e criticamente assennati, vero, che giustamente si impongono fino a diventare moda. È questa, dico, la moda, che a un certo punto finisce col vanificare o addirittura ridicolizzare i principi giusti iniziali. Ebbene, così è avvenuto con Sainte-Beuve. Nel secondo Ottocento e all'inizio del Novecento, la sua attenzione per la vita degli autori, per la loro psicologia, vero, si è banalizzata, è diventato un metodo adottato dalle università, un metodo variamente strapazzato. E ne è un esempio eclatante lo scempio critico che è stato fatto, per esempio, ai danni di Baudelaire, dei suoi Fiori del Male. In questa sua opera sono state abusivamente introdotte donne della sua biografia. In tal modo si è gravemente alterato il significato dell'opera stessa, che è di natura altamente simbolica, di natura universale, estranea alla biografia, alla quotidianità. Ebbene, Proust, che si formò in questo clima di banalizzazione, reagì energicamente, affermando che non esiste rapporto fra l'io profondo, l'io creatore dell'artista, e l'io quotidiano, quello che si desume dalla biografia. Su questa via inaugurata da Proust si è messa la critica novecentesca, con la Nouvelle Critique, arrivando a estremizzazioni come la morte dell'autore di Barthes, eccetera. Ecco, il revival di Sainte-Beuve, cominciato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso col libro Pur Sainte-Beuve dello scrittore e accademico di Francia José Cabanis, è senza dubbio una reazione, una rivincita, se si vuole, dell'autentico Sainte-Beuve contro gli eccessi, contro i tecnicismi, contro le banalizzazioni di una critica che nel corso del secondo Novecento ha finito col privare la letteratura dei suoi aspetti più umanamente gradevoli, più utili alla nostra vita, fino a rendere la letteratura una cosa insopportabile, una cosa fastidiosa, noiosa, arida. E penso che il giudizio di Contini rientri a pieno diritto in questa reazione che riporta Sainte-Beuve alla sua originaria e meritata gloria, diciamo alla sua modernità. Grazie al professor Mario Richter. Buona domenica. Grazie. Un francese contemporaneo è il filosofo Alain Finkielkraut, molto famoso, di cui Adelphi pubblica Un cuore intelligente, 212 pagine, 20 euro, tradotto da Francesco Bergamasco. Questa è una raccolta di saggi dedicati ciascuno a un libro, anzi a un capolavoro. Si parla infatti di Milan Kundera, Lo scherzo, di Tutto scorre di Grossman, Storia di un tedesco di Sébastien Hoffner, Il primo uomo di Albert Camus, Macchia umana di Philippe Rohr, Lord Jim di Joseph Conrad, Ricordi del sottosuolo di Dostoevsky, Washington Square di Henry James e Il pranzo di Babette di Karen Blixen. Che cosa ha scelto in queste opere il filosofo? Ma soprattutto la capacità appunto di arricchirci. Il cuore intelligente, quello che dà il titolo al libro, infatti spiega il filosofo, è quello che Salomone implorava dall'Altissimo perché glielo concedesse. Una richiesta, dice Finkielkraut, particolarmente attuale in un periodo dominato dai delitti incrociati dei burocrati, ovvero di un'intelligenza unicamente strumentale, e degli ossessi, ovvero di un sentimentalismo rozzo, binario, astratto e sovranamente indifferente ai destini individuali, alla loro singolarità e fragilità. Ma ricevere questo dono da Dio è difficile, Dio tace, dice il filosofo, e allora il cuore intelligente può essere rintracciato nella letteratura, in particolare in questi 9 saggi su libri scelti facendosi guidare, scrive, dall'emozione e mettendo nella lettura di essi tutta la serietà e l'attenzione che esige la decifrazione degli enigmi del mondo. E allora, vista l'ora anche, sentiamo queste righe dedicate al pranzo di Babette, del quale molti ricorderanno la riuscita trasposizione cinematografica di Gabriel Axel, Oscar 1987, nel quale si cita anche il nostro Alberto Savinio. Prima di quel pranzo, i fedeli mangiavano un po' di zuppa o di pesce e bevevano dell'acqua, o a volte, ma con molta moderazione, del vino. Che cosa ha fatto Babette? Ha regalato loro un viaggio insperato nel paese delle sfumature, delle qualità e degli infiniti sapori. Babette non stava ai fornelli per soddisfare bisogni alimentari, ma per sottrarre l'alimentazione alla morsa della necessità. Non rispondeva a un'esigenza della natura, ma della civiltà. Il dolce, scrive splendidamente Alberto Savino nella Nuova Enciclopedia, fa dimenticare quel che di necessario, e dunque di cupo e di mortale, è nell'operazione del nutrirsi. Ci riconcilia con la parte divina della vita e fa rifiorire in noi il riso. Punizione gravissima è lasciare un bambino senza dolce, togliergli la gioia e il conforto di dimenticare in sé la bestiolina. Nel pranzo di Babette tutto è dolce e tutto è superbamente inutile. L'ascetismo è stato sconfitto, ma anche il materialismo e il vitalismo sono stati battuti su tutta la linea. Le portate sono state convertite in opere e il pasto è diventato un avvenimento indimenticabile. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Restiamo in Francia per tutt'altra ragione. In questo periodo è in corso il Tour de France e allora voglio ricordare uno dei suoi immortali protagonisti, cioè Fausto Coppi, che troviamo nel libro di Alessandra De Stefano, Giulia e Fausto, la storia segreta dell'amore scandaloso che spaccò l'Italia. Rizzoli, 306 pagine, 18,90 euro. La vicenda la ricorderete, quello di Fausto Coppi con Giulia Occhini fu un amore difficile e contrastato. La Dama Bianca, come venne chiamata, era a sua volta sposata come Coppi, si innamorò del campione e i due avviano un ménage che l'Italia di allora considera assolutamente scandaloso, tanto da portare a un processo penale, a un periodo di detenzione per la donna accusata di adulterio e alla condanna del campione e di Giulia Occhini a diversi mesi di reclusione. E dunque il libro ripercorre questa storia, che è significativa non soltanto per ricordare Fausto Coppi, ma soprattutto per rimmergersi e capire che cos'era e com'era l'Italia di 50-60 anni fa. E ancora di questo amore si parla nel libro di Marco Innocenti, Amori liberi, amanti scomodi, le passioni impossibili del Novecento, pubblicato da Mursi, a 204 pagine, 16 euro. A partire da Modigliani e Jeanne Buterne, 21 coppie che hanno infiammato le passioni, le cronache rose, vittime tutte di legami difficili e contrastati. Oltre a coppi, ci sono per esempio le storie di Francis Scott Fitzgerald e Zelda, un'unione contrastata dalla malattia e dall'alcol, quella di Ingmar Bergman e Roberto Rossellini, quella di Ava Gardner e Frank Sinatra, quella di Marilyn Monroe e di Joe DiMaggio. Si parla anche di Brigitte Bardot e Roger Vadim, un amore che interrompe l'unione tra l'attrice Günter Sachs, il playboy che si è suicidato poche settimane fa. Sentiamo queste righe proprio su quella Brigitte Bardot. Il rapporto con Sachs non funziona. Brigitte è un mito. Non può essere di un uomo solo. Nel 68 è Marianne, il simbolo della France Eternelle. La ragazza di Saint-Tropez è forse la donna più celebre del mondo. Ovunque si canta Brigitte Bardot, Bardot. Gli uomini la desiderano. I fotografi la inseguono. Le fantasie si scatenano. L'attrice non interessa. È la donna che fa impazzire. Le ragazze vestono a quadrettini bianchi e rosa come lei, portano la coda di cavallo che ha lanciato lei, cercano nei negozi il suo reggiseno a balconcino, camminano danzando sulle ballerine e sognano di far perdere la testa agli uomini, senza perderla insieme a loro, come fanno i suoi personaggi sullo schermo. Il 68 è il suo anno. Bibi passa la sua estate più calda a Saint-Tropez. Si fidanza con la notte. Il 7 luglio invita 1000 persone alla Madrag, la sua villa di Saint-Tropez. Conosce Gigi Rizzi, passa l'estate con lui. Ci riempivamo gli occhi di sogni, dirà lui anni dopo, e la ricorderà così. Fragile, malinconica, intelligente, sensibile, gelosa della sua intimità. È un lampo, l'Italia si inorgoglisce per il conquistatore di Bibi. L'estate si consuma, in settembre Gigi se ne va verso altre braccia, altre feste, altri orizzonti. Nel libro di Innocenti si parla anche del tormentato rapporto a Troyes tra Friedrich Nietzsche, Lou von Salome e Paul Re, che è testimoniato nel carteggio tra i tre, che viene adesso riproposto da Adelphi, triangolo di lettere, 492 pagine, 18 euro, curato da Mario Carpitella. Ma torniamo al ciclismo, col libro di uno storico inglese che ama molto l'Italia, John Foote, il quale pubblica con Rizzoli Pedalare, col punto esclamativo, la grande avventura del ciclismo italiano, Rizzoli, 410 pagine, 22 euro. Partendo dall'incontro con un collezionista milanese, Renzo Zanazzi, che possiede una straordinaria raccolta di foto sul ciclismo italiano, Foote racconta la storia di questa grande passione, dei suoi eroi, dei suoi luoghi simbolo, a partire dalla salita del Ghisallo e della sua evoluzione o involuzione. Si parte dall'inizio, dalla diffusione della bicicletta alla fine dell'Ottocento, si incontrano le figure mitiche di Girardengo, di Binda, di Guerra e poi naturalmente di Coppi, di Bartali. Anzi, si accenna anche in questo libro proprio al suo legame con Giulio Chini e si dà la responsabilità a un certo tenore di vita che richiedeva la Dama Bianca per il fatto che Coppi non abbia sostanzialmente mai voluto rinunciare alla propria carriera e non abbia voluto uscire di scena nel momento forse più glorioso per lui. Poi si parla appunto dell'evoluzione e del progresso del ciclismo italiano fino ad oggi, a quello che Foote considera il declino legato soprattutto alla diffusione del doping, secondo l'autore molto diffuso. Qualche pagina di speranza alla fine con la diffusione popolare che la bicicletta sta avendo e che Foote descrive nel suo libro. Nel libro di Foote si parla anche di Marco Pantani e della sua storia malinconica, che ritroviamo nel libro di Marco Bruciantini e Cosimo Cito, sono due giornalisti sportivi, Torride tristezze, Limina, 130 pagine, 19,90 euro. Qui troviamo 9 campioni ciclisti, protagonisti di storie drammatiche, a partire da un campione degli anni 50, Charlie Gaulle, lussemburghese, che Roland Barthes aveva addirittura definito il Rambo del Tour, il quale dopo una vecchiaia in solitudine e alla fine consolata da un matrimonio felice, ricomparirà l'ultima volta proprio al funerale di Pantani nel 2004. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un insolito Mario Pannunzio, il grande giornalista liberale vissuto tra il 1910 e il 1968, il mitico fondatore del Mondo, il quale pubblicò anche un romanzo che è stato adesso ritrovato da Massimo Teodori e che viene ripubblicato da Aragno, 152 pagine, 10 euro, si intitola Occhio di Marmo. Poi un altro politico in servizio attivo ancora, Walter Veltroni. L'inizio del buio, si intitola il suo libro Alfredino Rampi e Roberto Peci, soli sotto l'occhio della TV, Rizzoli, 270 pagine, 18 euro. Questa è una ricostruzione di due pagine drammatiche della storia d'Italia che segnarono l'irrompere di un nuovo modo di comunicare attraverso la televisione. E infine vi segnalo un thriller politico-affaristico, Sete, di Alberto Riva, 15,90€, 468 pagine, pubblicato da Mondadori. Questo è un romanzo che ci porta in Brasile, dove vive l'autore, in un torbido clima che ruota attorno al controllo appunto dell'oro blu, dell'acqua. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo oggi un libro molto particolare che si intitola Il gatto che aveva perso la coda, è pubblicato da Cartusia, lo trovate nelle librerie, ma viene anche usato come uno strumento terapeutico negli ospedali pediatrici. Infatti questo è un libro, dicevo, particolare, rivolto ai bambini malati di tumore e ai loro genitori, per aiutare entrambi ad affrontare le terapie necessarie. Quindi nasce per l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con la consulenza psicologica di Carlo Alberto Clerici e Barbara Giacon. Gli autori sono Gabriele Carabelli e Sara Frasca, che sono due tecnici di radioterapia. Prima di salutarci vi segnalo che è in corso Lago Maggiore Letteratura, Festival di Letteratura di Montagna, Viaggio e Avventura. Dopo la tappa di Verbania si conclude oggi quella in Valle Antona e dall'8 al 10 di luglio il festival si sposta nelle valli Antigorio e Formazza e poi dal 16 al 17 in Val Bigezzo. Il festival è ricco di molte iniziative, tra cui presentazioni di libri, incontri con autori. Per esempio, domenica prossima alle Terme di Premia ci sarà un documento importante, cioè l'intervista che Marco Paolini aveva fatto a Mario Rigoni Stern, e ci sono anche escursioni letterarie in Val Grande. E adesso ringrazio Claudia Carusi, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa trasmissione e tutte le altre. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.